là. Avanti Ecco Roger, qualcuno l'ascolta, lo devi dare 10, passo. Qualcuno l'ascolta, mi dare 10, passo. Alan, 68, qua, 131. Qualcuno l'ascolta, per favore, grazie. Una rete di vendita bestiale, perciò ovviamente vanno bene, niente da dire, come microfoni, però quello va molto bene, sì. Ottima emissione. A quanto ce l'hai adesso il guadagno? Allora, poco fa ce l'avevo, quindi adesso è tra il 4 e il 5. Cavolo, amplifica già un bel. Prova a metterlo a 3, vediamo a 3 com'è così, per prova. Allora, così è tra 4 e 5, ecco qua, e così è a 3. Prova a metterla a 2, vediamo cosa succede. Allora, così è a 3, e così è a 2, ecco qua, così è a 2. Ma abbassa di niente, quasi sembra che non abbassi nulla. Abbassa ancora di più, prova. Allora, così a 2, e così praticamente a 1, ecco qua. Così a 1, se lo abbasso di più non esce, va a 0. E proprio dove c'è scritto min, 0 min. Amplifica un casino. Se è così, amplifica un bel. Amplifica un bel. Vabbè. Ottimo, ottimo, va molto bene. KK, e poi c'è l'eco, praticamente lo puoi mettere così, però non so come va. No, hai detto puoi mettere così, ma non hai cambiato nulla. Ah, non hai cambiato niente. Allora bisogna tirarlo su di più, guarda. Ora, ecco, no, a uno vuol dire non va. C'è l'eco a 2 e il microfono a 2. Così c'è, così c'è, sì, così c'è effetto camera, però è bello, non è fastidioso, ecco, non è fastidioso come quello del Galaxy, ma va abbastanza bene, si sopporta bene. Se non si esagera è bello perché crea la voce un po' più profonda, ma senza queste ripetizioni che sono fastidiose. No, non so cosa, ecco, non mi piace. KK, va bene che va bene, io sono qua, mamma mia, di una stanchezza, mi sono seduto adesso mi sono seduto. Per carità di Dio, non tolgo piedi, Vabbè, piano piano si fa. Io sono uno specialista oramai fra i traslochi, uffici, depositi, cose varie, ogni volta è una sofferenza, è svuota qua, è prima la mansarda, è poi sposta, è poi il garage, è poi l'altro garage, è poi l'ufficio, è poi il deposito. Ma no, guarda, non ho più voglia. Se mi dovesse succedere adesso, dover trascrivere qualcosa, brucio tutto, chiamo qualcuno, beh, portati via tutto perché non voglio più sapere. No, ti capisco. Io invece oggi ho fatto un giro, ero sul lungomare, addirittura sino a Vittorio, e sono rientrato poco fa, stando a casa. Ehi, Marco, no, io va, veramente. No, ma la cosa grave, io ripeto, ribadisco, ne parlavo l'altro giorno con Giulio, cosa riescono a mettere queste donne dentro gli armadi, cioè non è fattibile una cosa del genere, non è fattibile. Io ho svuotato praticamente tutti gli armadi, manca solo il vestiario, gli armadi delle camere da letto per così dire, ma c'ho 70 scatole di cartone, 70 scatole di cartone piene. Ma è così, non sai cos'è, con la roba è sistemata, non sembra che occupi volume. E io ho liberato l'ufficio quando mi sono spostato, cioè, ho detto, lo ci metto. Ho cominciato a trasportare pacchi, scatole, non finivo più, detto, non è possibile, è proprio vero, quando la roba è sistemata in scaffale non ci fai caso, poi quando devi caricarla e trasportarla, voi se te ne rendi conto che il volume cresce in una maniera bestiale. Adesso, vabbè, è così. Portare i mobili qua a notte, non la vuoi mai. Dale, tratto, diceva questo. Io sono veramente arrivato a casa, là, non sapevo, non so come si chiama, sapevo che era un bel microfono e di Salenta ne aveva avuto qualcuno, tipo 30 anni, 40 anni fa, 30 anni fa. Quello non è più avuto, non so neanche forse dati, non so, viaggio, di cose, per carità, più belle, di cose più belle, di tarre e cose del genere, ma... Ma che bello siamo! Oh, il microfono da tavolo che è difficilissimo del Simba, del... ho due io di Simba. E ho il microfono da tavolo originale che pesa quanto è un Comtat di... È una cosa allucinante. Quello della Perception praticamente, sì, io l'ho dato, quello è quello cromato, quello che c'è l'asta cromata che si abbassa praticamente, se quello lì è tutto di ferro, io l'ho dato ad un amico, capito, se è quello, non lo so, va bene. Quello lì, ma non c'è una pesante, no, una cosa allucinante, e poi adesso da tanto che magari non lo vedi, ma rispetto agli altri microfoni è gigantesco, è proprio il pulsante grande per il PPT, cioè. Tanto tempo, devo dire che è attaccato a uno dei Simba, ma non l'ho messo in funzione da parecchio, non so neanche se ma funzionerà sicuramente, ma è fermo da un bel po', anche perché era pesante, Simba da spostare, era sempre una posizione, adesso mi viene un pochino meglio, bisogna che lo tiri fuori da quella parte del, perché ce l'ho su un'altra, sulla scrivania laterale ce l'ho, bisogna che lo tolga da lì e lo metta nella scrivania dietro al mobile dove uso le apparecchiature, quello dove ho già le altre radio, quelle che sono collegate, e lo faccio funzionare. Sono curioso di vedere come va. Poi c'è quella forma a becco particolare, mi ricordo la capsula, anche quella è strana, non è mentre quelle degli altri microfoni trovi sono abbastanza facili da reperire, anche quella lì del Per Simpson, con quella forma lì è un bel particolare. Vabbè, da vedere, dai, ci aggiorniamo magari più tardi da su, adesso rientro e mi riprendo un pochino. Ciao, ci sentiamo, a dopo. Ciao Marco, grazie alle due chiacchiere, a dopo, dai, buon rientro a casa, sono in radio, intanto io sono qua, anch'io mi sto un po' rilassando. Sì, un grande microfono, buona ragione, c'ha la base di un colore sul marroncino, sembra color legno, sì, ce l'avevo, sino a pochissimo tempo fa, l'ho dato assieme ai vintage. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ok, ciao. A dopo, ciao. C'è nessuno sul canale 10? Pronto, c'è qualcuno sul canale 10? Ulla, 1, 2, 3, 4, 5, però la radio, c'è qualcuno sul canale 10? Sì, avanti, attento 10, avanti che vuole entrare. Abbaccia le voci. Ma c'era questo rumore, ma non lo sento. C'è gente sul canale 9, anch'io c'ho splatter. Ciao, Rio. Ehi, da lì. Vabbè, dimmi qualcosa. Cosa te devo dire? Se la gente non gioco, non lo senti. Ma lo stai usando? Ehi, questo lo sto usando, io. Ma se non anda, no, che non anda a classe. E ho capito che non va lì, ma non va perché c'è un problema sulla radio sicuramente. Io questo microfono l'ho sentito e c'era a metà. Non va su quella radio, evidentemente c'è qualcosa di connessione sbagliata, boh, non c'ha le connessioni del Typhoon. Cosa vuoi che ti dica? Boh, io ce l'ho piazzato e... non so, tu lo sai benissimo, se io metto l'MV più 4 lo spingi un sacco, Vabbè, dai, io sono qua in ascolto e sto controllando un tablet. Ehi, io ce l'ho a metà, se lo metto a manetta, me l'ha fatto abbassare Marco. Ma con che radio sei, Cla? Con Saturn Echo e il Sadelta Master Plus. Cazzo, sta andando un bel forte, infatti ho detto buono. Non sono attenuato, come vedi, sto andando con 5 watt. No, sto dicendo la radio che è fortissima, un bel forte, ma c'è anche Danilo e Luca. Ehi, Danilo c'è, Luca sta finendo un lavoretto. Neanche a metà. Vai Danilo, avanti a te. No, per essere a metà è bello forte. Io sono un pochino distante da te, mi robe, da Claudio. Sono molto vabbè, qua siamo attaccati, ma è forte, è molto amplificato. Tu, il tuo segnale sei quasi 9+20, la radio è 5, però lui è più forte, più amplificato. Ma io sentivo poco fa Santiago 9 qualcosa, un rumore di fondo, tipo alternata. Chi era? Qualcuno non è uscito? Oh, non lo so. E da lì qua, così è a 1, 2, 3, adesso te lo metto a 5. No. Così è a 5, guarda. È bello forte, mica. Prova a sollevare un pochino, una prova solo prova a fare. Guarda, così è a 5, ora te lo pongo a 7, dai. Ora, ora, ora. Così è a 7, guarda. Così è troppo forte, inizia a essere già troppo forte. Te lo sto dicendo, me l'ha regolato Marco. Dici che lo metto così, così deve andare. Così è perfetto. Va benissimo, è più comprensibile la voce. Se sollevi è troppo lineare, rimane la voce là. È troppo abbrutturosa, cosa poi Roberto Mininchia. Oh, ho detto, ma questa stecca perché è così lunga? Questa non può essere va più corta. Ma non so come si fa, si smonta dalla capsula. No, dalla scheda devi smontarlo, Cla. Dalla scheda? Devo aprire il microfono, smontare da giù. Bisogna smontare il tappo di sotto. Disinsaldare i cavi che vanno alla capsula. Sfilarlo, tagliarlo e rimetterlo nuovamente com'era. Ah, ho capito. Sì, ma per accorciarlo devo togliere il tubicino. Da dove si stacca il tubo? Da dove c'è il flessibile o da dove c'è la capsula attaccata? No, lui da dove c'è la capsula. Infatti, già l'ho visto. Cappa del Rogero. Conviene di saldare i fili dalla capsula sopra, non da sotto. Io ho fatto prima da sotto perché ho dovuto cambiare tutto quanto il tubo, col flessibile. Sì, certo, così sì, ma per accorciarlo basta togliere la capsula, piantonare la capsula e tagliarlo almeno 5-10 cm. È molto bello, nuovo. La luce non accende comunque della batteria, eh? Ah, non accende neanche a te? No, va ragione Luca, non accende la luce della batteria e il modulometro non funziona. Non funziona il modulometro? No, negativo. Quello dell'eco funziona quando inserisco l'eco, quello funziona, quello del modulometro non funziona. Oh, strano, eh. Dunque, se ti servono i flessibili col microfono, anche la capsula tipo solare, se ti servono domani ti riporto la porta, lo smonto uno. Flessibile di cosa? No, lascia stare il tubicino che è più bello, ma lo accorcio. Lo accorcio, è troppo lungo. Ma comunque abbassa un peluzzino, se è leggermente alto. Lo stavo regolando. Aspetta che lo metto come era poco fa. Così deve andare, Robert. Se non alzi la voce può andare, però se ti alzi appena tono di voce arrivi al rosso, sta distorcendo. Un peluzzino, se riesci a abbassarlo ancora un pochettino. Addirittura. Perché siamo vicini con lui, Roberto, poi ho una rottura di palle con questo analizzatore che... Allora, te l'ho abbassato un pelino, guarda, adesso ti metto anche l'eco, ecco. Così bene va con l'eco. Se ti biasate l'eco, a me non mi biasate, togliere tutto e lasciarlo come era prima, abbasso così, va bene. Va bene, capo, sarà fatto, tolto tutto, va bene. Ehi, chi era Antonio che è entrato? Ehi, Antonio, quella roba là è già pronta per domani mattina, già pronta per la partenza. Sì, grazie. Ok, vai a tu. Ehi, buonasera a tutti. E allora? Cazzo, non senti i colpi, minchia. Cioè, ci sono due camionisti sul canale 9 che mi sono ammazzati. Ma che non intendiamo mai, però. Capa. Si matta in 5 minuti, attacco con lineare, da voi voglio vedere. Ma stanno sbatterando di brutto, cioè, è una cosa, chissà che baracchini c'è. Sul canale 9, sicuramente stanno passando qua sulla 131, io ce li ho avanti. Va bene. Ok, Dani, ok. No, non mi serve niente a me, se vuoi bisogno il microfono, vanno. No, questo, per 2 minuti le accorcio leggermente il gambo e già va bene così, dai. Ok, no. Comunque quelli che ci sono a fianco a noi sono parlando in sardo. Ci vuole faccio un po' di lingua. Ma la tutte le robe. Sono vicino, che carità, insomma. Ma Morredini, ha proprio davvero tanto, oggi sta attaccando lineare. Ah, lascia stare, poverini, non ce la vedete fra di essi. Lascia stare, Antonio, non avranno il fastidio, no? Me la fottino da me. KK, capito, Lu? Se facevi magari la prova, se vuoi io te lo dirò e fai la prova, perché il microfono è a posto. Fai la prova magari sulle connessioni e poi se non va bene per quella radio, ma penso che sia un problema di connessione, Lu. Ecco come ti richiama, quando non andava, abbiamo fatto le prove, cosa mi sopo? Tu mi hai toccato. Assolutamente no, ma io mi ricordavo, siccome con Danilo ci ho fatto diversi QSO e mi diceva sempre che stavo usando il Salelta Master Plus e la connessione del Galaxy, io l'ho attaccato al Galaxy, è perfetto, non c'ha niente il microfono, capito? Quindi sicuramente da te va invertito qualche filo. Boh, cosa vuoi che dica? Non lo so, ti dirò la stronzata. No, allora sì, anch'io ti stai dicendo una strozzata, ma che non sia adattabile, il telefono lo mette lo Galaxy, non è che c'è un banuba, ti ripeto, io non ho toccato niente, ma l'ho provato poco fa, perché appunto si voleva togliere lo sfizio, e diceva, sì, ho quel microfono, lo stavo usando e funzionava, la Luca non va, infatti ho detto, sicuramente non va su quella radio, dammelo a me che lo provo, se va su, vuol dire il microfono è a posto. Giusto per fare questa prova mio ho capito, quindi secondo me bisogna invertire qualche filo e tu già non hai problemi per farlo, te li segni e poi li rimetti com'era, se non va bene non ci sono problemi per quello, se lo vuoi te lo dirò io. Sai cos'è? Il discorso è che filo devi spostare, cazzo gli dici Gabue, no, guarda, ti prego, se sono quattro figli, ok, ma se tu mi dici che sono cinque, controlla se sono cinque figli, da me ho detto che sono cinque, però controlla, dai, fatemi controllare il vostro tablet un attimo. Picchiti su Bunno, dai, aiuto, dai. Ehi, Marco Rubello e Gocchi. Marco Rubello e Gocchi, sono uno vicino all'altro, già non vuoi disturbare, lasciali stare tranquilli e sereni, stanno lavorando. No, a quattro attacchi, a quattro, no, perlomeno io non l'avevo abito, non ho toccato niente tu. Dai, finisci quel tablet e poi rientra, dai. Avanti, Dani. Ciao, Cla, c'ha cinque fili in tutto collegati, perché c'ha anche la massa. C'ha la massa che è collegata dal microfono allo spinotto che va alla radio. Che non me l'avevi consigliato tu di fare quel passaggio così, di collegare la massa. Perché avevo un problema, non mi ricordo che cosa mi faccio, mi sa che era problema di attenuata. Una cosa del genere, che facevamo... E tu mi avevi consigliato di mettere un filo a massa che faceva dal microfono alla radio. E io infatti dato che c'ero ho sfruttato il cavo che c'è dentro un filo che c'è dentro il cavo, che lo sto usando, l'ho usato come massa. Sì. Allora va a 5, dai. Perché altrimenti ti fa rientro. No, va bene. No, per me va bene, ho provato anche in cuffia, va bene, quindi il microfono non ha niente, bisogna adattarlo alla radio di Luca. Avanti, va bene. E io non parlo a te senza problemi, non c'è qua. Ma chi è che c'ha il problema? Luca, Luca. Da lì tu c'hai il problema di connessione, cos'è il problema? Ecco. No, in poche parole il Sadelta lo stava prendendo Luca per provarlo sulla sua radio, ma invece andava bene. L'ha provato lì la troppa alternata lì da, appena tocca il modulatore. Siccome io ce l'avevo sul Galaxy, adesso l'ho adattato audio, avrei avuto lo stesso problema, li facevo lo stesso problema. E invece non lo fa con Galaxy, perché sicuramente sono le connessioni diverse. C'è stato un break. Avanti, break. Positivo, dai, no, continuate, io sono qua, dai, comunque, vi sto ascoltando. Buonasera a tutti. Ciao, Massimi, buonasera, ben ascoltato, dai. KK. Va bene, ok, vai, riprendi, bombolo, fai girare. KK, dai, avanti, io sono per chi tocca, dai. Aspetta che poi ti lancia Roberto. Massimiliano, come sta andando? Bene, va bene sto microfono. Cognac là, cosa stai usando? Il classico Saletta. Saletta Master Plus Classic. Buono, buono, va benissimo. Ottima modulazione. Non avevo dubbi. KK, allora già va bene. No, perché a Luca non le va bene. A Luca arrivare nel telefono va bene, pure le connessioni dovrebbero essere uguali. A meno che oggi sia la connessione sbagliata, perché lì va in innesco, fa un sacco di casino, poi non amplifica. Mentre qua ce l'ho a metà, fatelo pronto, me l'ha fatto abbassare Roberto, come al solito, il boss dei microfoni. Avanti Roberto. Mi stai prendendo il sorso, già lo so. No, magari se ne accorgono di meno, però qua arrivi troppo forte, non c'è problema. Ciao Massimiliano, ben sentito, a te il mic. Caffa, ciao Roberto, buonasera a tutti, dai, sono Danilo, anche Luca. Questa è sempre bene, sta andando, sì? Alla grande. Eia, va bene, ok. Roberto, a te, buono? Sì, chiara e pulita la modulazione, non posso dire niente, il segnale è quasi 9.20, per cui tutto va positivo. C'è anche Danilo, ti rilancia Danilo per i saluti, a parte Danilo per Massimiliano. Sì, ciao Massimiliano, sai che ti faccio un controllo anche io che sono un pochino lontano da te. Sì, dai, oh Danilo, tu sei il più vicino da me, loro sono i più lontani, no? Ok, vedi un po'. Allora, questa radio, ti dico solo che io ce l'ho tutto chiuso, il power. Ok, e fa 2 watt di bianca e 30 watt di picco. Adesso come adesso sei a 9.20 secco, radio 5 sei perfetto, no? Va bene, ok, buono, vai riprendi Claudio. Sì, ottima radio comunque, ecco, bella. Cappa, aggiudicato, allora così più 5 lo metto nuovamente sull'altra radio. Sì, anche qua 9.20 pieno, Massimiliano, con picchi positivi. E anch'io, io ho 4 o 5 watt di portante bianca e quasi 30 modulati. Questi Galaxy sono veramente una bottezza, veramente. Poi adesso l'altro non accendevo, stavo usando il 430, ma c'è una ricezione sempre grande, grande favola. Avanti, bomboli. Cappa, dai. Io ne ho un po' di più di voi, dai. Poco, dai. Antonio, fai la bravo, mi accendo il drone. Cappa. Prima o poi arriverò pure io a prendermi quello, non ti preoccupare. Sì, ma da voi c'è stata la mansarda, amianto. Si attacchi chi c'è stata la mansarda. Adesso attaccare chi c'è il vento, le batti lo drone, non senti te, si è nata la cabituria. Cappa. Io devo sollevare un po' in più e basta, sono a posto, perché è troppo bassa l'antenna. Già va bene, già ti difendi bene. KK. L'hai ricevuto il messaggio, Massimiliano, hai capito? No, non mi hai detto niente. Ah sì, dei locali chiusi? Eh sì. Quindi sicuramente lì troverai solo tabacchino se è aperto. Il resto non c'è niente, tutto usato. Siamo nuovamente incasinati. Io stamattina infatti non sono manco uscito, mi sono dedicato qua perché così ho veramente finito, c'è solo da prendere vestiari e buco. E basta, mi sono imballato un altro po' di roba, mi sono dedicato e per quello che stamattina proprio ti ha detto me ne sta forzando. Va bene, dai. Già mi capisci tu. Ui, vai Roberto. Ma è grosso, ormai l'ha già portato via, no? È così qua. No, veramente non ho portato via niente. C'ho una settantina di scatole già tutte chiuse e ballate qua dove c'era la sala radio, non c'è più niente. E poi ne ho un'altra quindicina nel salone. È finito tutto praticamente, ho tolto i riquadri, portare via la televisione e smontare i mobili. Ma i mobili sono tutti vuoti, robe. E i 2 armadi di camera da letto, portare via il vestiario, insomma, e basta. E la cucina? No, la cucina però nuova, la cucina rimane qua, la cucina l'ho regalata a quello che ha comprato. Sì, c'è il legno, no? E Truciolari si era fatto la falegnameria a tendere quella cucina e i 2 armadi, quello in caso dell'ingresso e quello della mia camera da letto. Capito? Quelli li lascio perché sono fatti in una maniera particolare e li ho lasciati. No, io devo comprare la cucina nuova, ho già comprato, devono piazzare, e poi 2 armadi, quello di camera da letto mio e quello di camera da letto di mia figlia. E ormai già si trova tutto, basta andare a Mondo Conveniente, a Conforama, non quantità del legno massiccio, però per uno che può spendere poco, poi quando si faccia ne tiene compare giornata, ma la cucina te la tirano a faccia, con gli elettromestici e tutto, con 1500 euro ti danno tutto. No, ma io non devo fare cucina come qua, questa è a 3,60 m, roba. Di là c'è il piano cottura, già fatto, c'è il coso di muratura, poi c'è il piano cottura, quello di ultima generazione, aiutami, che non ci sono fornelli, come si chiama? Quella induzione. Esatto, col piano induzione. Poi sotto c'è lavastoviglie e poi il piano sopraelevato che c'è il frigo incassato dentro a tre sportelli, basta. Ormai si fanno così le cucine. Auguri. Grazie Anto, grazie, che Dio te lo baghi, la mattina non me ne dai barò. Ehi, contatore, andai. Contatore, va a contare di là? No, paga lui. Perché? Un bel costa. No, anche la induzione un po' caldo su c'è. Oh, certo che smatterrà e poi mi darò la bombola. Un po' di gente l'ha fatto. Un altro cliente io me l'ha tolto proprio. Ehi Anto, facciamo la prova, io non ne ho mai avuto. Questo è il piano, è così, è nuovo, lo piazziamo poi, se no davvero è bongo bongo me. Chiamo chi me l'ha venduto, te porta di seduto e mi metto il con la bombola di nuovo, ciabiello C. Vai Massimiliano. Ehi aspetta che faccio riprendere Danilo che mi sembra che ha detto che stava chiudendo, vai Dani. Sì, è che non date il tempo almeno 2 secondi da uno all'altro. No, stavo chiudendo, per caso vado a farmi una doccia, no? Che sono salito un attimino sul tetto che c'avevo l'antenna, mi stava dando stazionarie alte, l'ho messa in terra, l'ho tolto il connettore, l'ho rimesso in piedi ed era funzionato bene. Dai, già ci sentiamo un altro momento, ciao a tutti. Oh, Dani, perdonami, ti chiamo dopo, che così ti dico una cosa se ti serve, ok? Ok, dai, mi faccio la doccia, così mi tolgo un po' di polvere da rosso. Quando sono finito ti faccio un messaggio, là. Ehi, che intanto devo togliere, vabbè, già ne parliamo dopo, dai. Ti chiamo dopo, ci sentiamo dopo al telefono, avanti, Massimiliano. Cappa, ciao Dani, sì, io l'ho sentito sotto di voi perché Danilo vi crepa tutti quanti, vabbè, vi vicino a casa, là. Ok, ciao Dani, buona doccia, buon tutto, ci sentiamo dopo, vai Robè. Ehi, ciao Dani, ci sentiamo alle prossime, buon tutto, buon proseguo, chi c'era poi? Luca, non so se sta facendo cosa, se no riprendi tu qua. Sono qua, mi sono andato a caricare un tablet, ciao Massimiliano, Antonio Bombolo, come si dice? Claro, non so cosa dici, ma bisogna mettere un filo, ma le connessioni di questo apparecchio qua sono uguali identici al iPhone, ma al Galaxy Saturn uguali, né più né meno. Ma infatti Luca, ci ho detto io, prendilo perché non devi cambiare neanche le connessioni, però io ti ho sentito per carità, e non va bene, quindi non so cosa dirti, ma io lo sto usando Infatti Danilo si è voluto togliere quello sfizio, non perché non si è fidato di te, attenzione, ma mi ha detto qua, te lo porto e lo provi sul Galaxy, io ce l'avevo sul Galaxy, intanto la radio che c'è tu è quella mia, il microfono è quello lì, e lo provi, se non va bene vuol dire che il microfono è andato a farsi forte, e invece funziona, quindi non so cosa dirti, ma io mi ricordo che il Typhoon, ma poi me l'ha detto Massimiliano sempre, il Typhoon, anche l'altro che c'hai, c'hanno tutte le connessioni del Galaxy, capito? Così è Massimiliano è sceso giù, riprendi Robè. C'è Antonio, vai Antonio, a te tocca. Ah, aspetta, scusa Antonio, no, allora, non so, Danilo, ci mancherebbe, l'abbiamo provato, noi non l'abbiamo provato, però magari in questo apparecchio rosso ho bisogno di cambiare qualche filo. Sai cosa è? Che io, mi userebbe due spinotti, non è che la già sai, gara, Cappa, dai, ma un attimino giù a pigliarmi il pigiama, ci sentiamo tra un pochino, ho offendito io. Ok, vai là. Comunque, che interessa sto dando un MC60 a nuovo luogo? L'ho visto, Massimiliano, solo per curiosità, quanto lo stai vendendo? Vabbè, il prezzo lascia perdere quello lì. Poi, se ti serve, mi mandi un messaggio. No, cioè non so neanche quanto c'è scritto. L'ho visto, vendete MC60 come nuovo, però non ho visto neanche il prezzo. Guardalo il prezzo, però non è quello. Ok. MC60? Sì, ma te lo te ne vendo, claro. No. non mi interessa guadagnarsi sopra di te. Che fratellone, che shakers. Per carità, no, non è voglio, non è voglio, non ti preoccupare. Già lo sai che noi vogliamo fare pure il gabriole, pari, non se ne fotte nuda. No, perché c'ho l'altro, già lo sai, capito? Eia, ma Cla, io ho guardato un pochino i prezzi su internet. Cazzo, non ce n'è uno che costa meno di 100 euro. Io lo so così, i 1060 costano un casino, costano un bel perché sono degli ottimi microfoni, io me l'ho sempre tenuto, qualcuno anche dando la radio non l'ho mai dato. Capito, perché sono microfoni che stanno salendo il prezzo, ma soprattutto sono dei microfoni che vanno bene, c'è niente da fare, io lo dico con molta sincerità perché è una vita che uso il 60 e ne ho da oggi provati tutti, anche l'80, l'85 sono dei buoni microfoni, ma non hanno niente a che fare col 60, vai Roberto. Sì, ma poi tutte le radio Cambridge hanno tutti, la maggior parte 60, i 90 che costa di più, pochissima gente ce l'ha. Allora sono stato fortunato. Beh, tu sei fortunato, sì, Antu. Ma cosa fortunato, Antu? Perché dopo tanto di grazia, ma con la fortuna è già una. Perché io non l'ho pagato così. Dipende, se ne trovi magari uno con qualche graffietta, una cosettina così, e lo riesci a trovare a poco, però non meno di 80 euro lo trovi, a meno che non sia un bidone. No. Vabbè, questo è praticamente, non c'è la scatola, ma è come che sto uscendo dalla scatola, nuovo, non c'ha neanche usura di niente, nel senso che, visto, io poi non lo uso col PTT, ma lo uso col lock, no, col pulsante, niente, non c'ha nessuna usura. Com'è che lo stai vendendo? Ma ne è doppione? No, non me ne faccio niente, mi guarda, o lo tengo o mi faccio lo spezzone per il Galaxy, voglio fare questa prova, mettergli le batterie. Ma non credo che renda più di tanto, su questi baracchini è meglio un Tanner, un Sadelta, cose così, non è che vanno più che bene, 60 è fatto per altri tipi di cose. Ma infatti. No, non mi interessa più usarlo, là, non c'ho neanche più radio, quindi... È quello lo stesso che c'aveva Fabrizio quando gli è sceso il fulmine, che è nuovo, fiammante, solo che gli è esploso, gli si sono scoppiati i tazzi addirittura. Io non ho mai visto una cosa del genere, proprio è esploso il microfono, ha dovuto ricostruire tutto quanto, credo che ce l'abbia Riccardino quel microfono, ma è nuovo. Kappa, va bene, ok, avanti Luca, è sparito, vai Claudio. Kappa, io no, quel macchinario è nuovo. Te l'ho fatto avere io, non per, però quando le cose sono nuove, quello che c'ho io è un po' più vecchiotto, però quello lì è nuovo, te lo sto dicendo, i prezzi sono quelli, non si scherza, te l'ho detto, stanno salendo un bel, poi io le ho sempre, qualcuno l'ho sempre tenuto anche non avendo radio, che non è che i Kenwood li ho sempre avuti, però anche è capitato qualche volta che ho venduto qualche Kenwood dove mi sono tenuto sempre le MC60, perché sono microfoni eccezionali. Avanti, bombolì. Kappa, sono buonissimi, cavolo. Io ce l'ho ed è ottimo, come microfono, non è Gizu è cosa, l'MBP4, Ma oltre che sono buoni, sono anche belli esteticamente, capito? Fanno la... quando tu lo metti sulla scrivania, sul banco, dove vuoi, cioè fa la sua figura, capito? Io ho un microfono della RCF, quando ci avrò tempo mi cercherò un altro MC60 di quello della battaglia, sostituisco tutta la testata, perché quello RCF è identico all'MC60, la testata è leggermente più grande, e c'è una modifica per migliorare ancora la modulazione, ce ne trovo uno a poco prezzo, ma proprio basso, anche con i tasti rotti, da riverniciare, c'ho già un progettino di un tipo che mi ha fatto vedere, e c'ho la testata di un RCF, che migliora ancora di più la modulazione. Cosa? Stavo dicendo a Massimiliano, se mi capita sotto mano un MC60 ma vecchio, anche rotto, tutto quant'altro, non mi serve niente, devo cambiare la testata, io ho la testata di un RCF, un microfono professionale per voce RCF, che è identico all'MC60 come forma e tutto quanto, devi solo cambiare la testata e riavvitarglielo all'MC60, però c'ho la modulazione, devi fare delle modifiche, c'ho uno dei condensatori e altre cose, come componenti, adesso non mi ricordo, c'è delle, come si chiama, delle induttanze, e c'è un progettino che c'ha questo amico che me l'ha dato, mi ha detto che lui l'ha già provato e dice una bomba. Sì, vabbè, poi quando apro le scatole se ti serve piantoni di quella roba lì, tu di quella roba al microfono, ma cantare mi sembra che ce li ho un po', li ho trovati dentro l'armadio quando ho svoltato tutto. Va bene, KK, io Massimi dai, mettilo in vendita che già lo vendi quello lì. Microfoni per cantare c'hai? Mi pare di sì, ma non me lo domandava, ma perché guarda, sono dentro delle scatole, e mi pare che c'ho anche una qualcosa che ti può servire, c'è a te. Tanto, però adesso non ti posso aiutare perché i cattoli sono tutti messi a posto, tanto c'è scritto tastiera, microfoni, cavi, capito? Quando apro le scatole ti regalo tutti, non manco di rivetti, già col filo, col piantone per tenerlo fermo, con l'asta per tenerlo fermo, sono belli. Quelli mi servono perché già lo sai io cosa devo fare. Uno ce l'ho già, un altro mi farebbe piacere avercelo, per mettere i microfoni, caspita! Non è che per caso c'hai un portatastiera, come si chiama? Il cavalletto per la tastiera? Cavalletto per la tastiera? Giulio per la tastiera, per il microfono. No, per mettere la tastiera a X, cioè presente quelle che sono una X, dove poggi la tastiera sopra? No, non penso. C'era un bel roba dentro gli armadi, credetemi. L'ho tolta tutta, non ho buttato niente, l'ho messo in uno scatolone grande. Poi quando trasloco vedo un po', quello che c'è ve lo do, no, non mi interessa, tanto io lo stavo buttando, però è tonto, può servire a qualcuno. Antonio, uno nuovo, addirittura senza filo, che si accende, c'è l'antennino, e vai a parlare praticamente camminando, capito? Professionale, nuovo, bello. Già mi servono a me già. Mi ha col telefono per me. Già mi servono già. Ehi Antonio, già te li do, non ti preoccupare, tanto io me ne faccio uno, li stavo buttando. E invece li ho messi tutti dentro una scatola, ed è tutto lo scatolone grande che è sotto tutte quelle piccole, quindi non rubuccio manco, se no ho fatto un casino di Gesù Cristo. Avanti Massimi. KK, va bene. Anche io ne ho uno di microfono, è piccolino però, cazzo, però è grosso, ma è migliore. Oh, ma di pelle. No, di pelle. Ma il rivestimento è bello, no, il mio è rivestimento in ferro, quindi è bescio. No, Claudio, che te l'ha salotto. Con giù fa un fianco. Ascolta, ma lo fiocchito va. Questo vuoi lasciare una capsula. Presente bene un cornicione, una fai del genere. No, altro, lo sto scherzando, davvero, mio, ne apparecchiano due o tre, poi c'era un affare, sembra tipo un mix, non mi ricordo manco chi me l'aveva dato, figura di due, era dentro l'armadio, nuovo, c'era quella roba per a te che tu canti, vai, c'è uno con i fili, col piedistallo, che lo puoi togliere, l'altro senza fili, che c'ha l'antennina sua, accendi, come accendi c'è anche, si accende la luce rossa, e poi muoverti, capito, sicuramente ci avrà qualcosa, già ne ho roba comunque, già ti la roba, non ti preoccupare. Capa, che a me serve quella roba lì? Mi darei che vuoi, c'è qualcuno che per esempio interessa un DVD? DVD? E il DVD porno mi vuoi da me? No, c'è una raccolta di non mafia, ma me la voglio togliere da mezzo alle palle. Scusa? Una raccolta un tuo di? Lino Banfi. No. Capa, ma volevo togliere a mezzo alle scatole, tanto no, non gioca mai del minuto. Ma Lino Banfi, quello ti spesso una noce di capocollo. Sono belli quei film. Oggi ho bello di Binocchio, Massimiliano, perché c'è il centenario di Nino Manfredi, che è bello, sempre bello quel film. Pinocchio è sempre stato un bel film, bellissimo qua. Infatti me lo mese che lo mandi, poi ho girato al 34, stanno dando un bel film di Nino Manfredi, ce n'è qualcuno anche stasera. E me lo guardo, veramente molto bello, Nino Manfredi è un grande, insieme a Lino Banfi, Paolo Villaggio, non venuto da là. Comunque se lo vuoi già ce ne ho qualcuno di chi si vede, a luci rosse. Cla, ma stasera c'è l'isola, cazzo. Mamma mia, lo già mai detto, cazzo. Per carità, sabato, amici di Maria. Domenica, Barbara Russo. Oggi vede i brasi. Si c'era molto in minigonna, invece di 25 metri di zingare. Forse era meglio. Ogni figura va fatto. Cosa, ma? Che brutta figura che ci ha fatto quando ha detto la settimana scorsa, non giovedì, il lunedì, dai, il giorno che iniziamo, che dovevano entrare in quella palappa, dite, entrate nella patata. Gliel'ho visto, entrate nella patata, io ero entrato a vedere la patata, quella pila. Mamma mia, che dispiacere questa che scrivania mi sta facendo. Non so, ma c'è la figura della mia, che è ancora più povera di chissà. Mamma mia, come sto. Ma oggi hai gasca per il porto. Ui, ui, ui. E io, naturalmente, come te, a tre piani. C'è il gas e la linea 4.30, buono per nulla. Bella, bella. Almeno facciamo contento l'amico, là. Ma se mi intanto, guarda, io ho contato sino a 10, però alla fine già va bene così, dai. Già va bene così. Sono contento lo stesso, anche perché intanto rimanevano lì buttate per terra, adesso io tempo non c'ho di fare niente, no? Assolutamente. Poi ti ripeto, lì mi devo organizzare, perché non è vostro più a brutto, sarà radio, contro sarà radio, una ne bombe e bombe, devo decidere, o mettere il Galaxy a 220 o mettere il 430, boh, finiti giù. Ma che due già vanno bene, una di scorta. Va bene, tu, va bene, io ci avevo un sacco di cose qua che non, tanto non usi, alla fine, come parlavo stamattina con Gianni, quando ne hai due, tre massimo è più che sufficiente. Dai la priorità a quelle che usi e il resto basta, cosa ti vai? È il bambino venduto, vai. No, quello è da una parte, quello da una parte, qua in mezzo alle scatole è per terra. Non si tocca. No, quello scherreggia, quello mi serve. Quando c'è qualcuno che fa la moella, quanti a volte difendimi? A colpi di roccio mi posso bagliare. Adesso sabato inizia la Formula 1, no, la MotoGP. Ecco la Formula 1. Cos'è Duducato? E ora? Barazzucci.